braccia aperte volerò se vuoi, incontro a te per non lasciarti mai, a mani giunte ti dirò così, besami con frenesì. Se questo amore resterà fra noi, sarà più dolce se anche tu dirai, socchiudi gli occhi e stringimi così, besami con frenesì. Ad ogni battito del cuore, amor mi baci di più, a tutto il mondo vorrei dire che tutto il bene sei tu. A braccia aperte volerò se vuoi, incontro a te per non lasciarti mai, a mani giunte ti dirò così, besami con frenesì. Ad ogni battito del cuore, amor mi baci di più, a tutto il mondo vorrei dire che tutto il bene sei tu. A braccia aperte volerò se vuoi, incontro a te per non lasciarti mai, a mani giunte ti dirò così, besami con frenesì. Besame con...